Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, 10 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, oggi in diretta di nuovo da Milano. I temi di questa giornata economico-finanziaria, beh, chiaramente il giorno dopo il DEF, il documento economico programmatico di economia e finanza, dove molte sono state le conferme, i 6,7 miliardi di taglio del cuneo fiscale per gli ultimi sette mesi del 2014, l'IRAP del 10%, anche qui da maggio in poi, misura che a regime comunque varrà 4 miliardi di euro l'anno, e poi invece una novità in qualche modo, perché se n'era un po' persa traccia, l'aliquota sulla rivalutazione delle quote di Banca d'Italia a carico delle banche dal 12 passa al 24% con 1 miliardo di euro atteso di gettito in più, e anche la tassazione sulle rendite finanziarie dal 20% al 26% ad esclusione dei titoli di Stato. Faccio notare che in questa misura, lo ricordo oggi, solo 24 ore, unita al bollo titoli e alla Tobin Tax, porta in alcuni casi la tassazione sul risparmio, sulle rendite da investimento, fino al 40%. Confermato invece il giro di vita sugli stipendi dei dirigenti della pubblica amministrazione, ma attenzione, non si applica ai manager delle società quotate e a quelle che poi possono emettere titoli. Il governo conta poi di ricavare circa 12 miliardi dalla privatizzazione di aziende pubbliche, tra cui le Poste, il 40% sul mercato, e l'ENAV, l'ente che regola il traffico aereo, al 49% sul mercato. Polemica con l'ex ministro, ex vice ministro all'economia, Stefano Fassina, esponente della minoranza, diciamo, del PD. Anche di questo parleremo ancora, però, visto che oggi si chiude e venite, le parte dei nostri programmi sono ancora in diretta da lì, di chi investe nel vino provenendo da altri settori, quindi dalla farmaceutica piuttosto che dalla moda. Ancora, per quello che riguarda la giornata, c'è il caso di Banca Marche. La Guardia di Finanza sta eseguendo varie perquisizioni disposte dalla Procura di Ancona nei confronti di 27 indagati tra ex dirigenti e amministratori del gruppo Banca Marche, che comprende anche la controllata Medio Leasing. Gli imprenditori che operano nelle province di Ancona, Macerata, Pesaro, ma anche a Roma, reati contestati sono, allo stato delle indagini, di natura societaria, falso in bilancio, falso in prospetto, ostacolo alla vigilanza, sia di natura invece non di comunicazione all'autorità di vigilanza, ma di natura patrimoniale, quindi appropriazione in debita. Le ipotesi di reato però potrebbero cambiare, visto che le indagini sono ancora in corso. Ricordo che Banca Marche è stata commissariata da qualche mese dalla Banca d'Italia e dopo aver avuto crediti deteriorati pari al 3,4 miliardi, il 20% di tutti i prestiti e tre volte il capitale della banca. Sotto accusa in particolare la gestione allegra dei crediti, allegra nel nostro aggettivo, diciamo, dei crediti della direzione di Massimo Bianconi, durata fino al 2012. Anche lì si indaga sul perché siano stati concessi certi crediti a certi soggetti, visto che ad alcuni appare chiara l'impossibilità o l'alto rischio ad essere solventi di questi soggetti. Ancora, per quello che riguarda la borsa, più 0,18% oggi Milano, devo dire in linea con il resto d'Europa, più 0,30% Parigi, invariata Francoforte, più 0,70% Londra, più 0,17% l'America, molto bene UX, più 6,50%, Prismian più 3,20%, Buzzi Unicem più 2,60%, Fiat più 2 come Atlantia e Pirelli, l'1,90 lo guadagna Autogrill, ma anche A2A, l'1,60 Moncler, ST Microelectronics, l'1,5 Terna, Snam e CNH Industrial. Perde la Popolare di Milano il 3%, Azimut il 2,70, Unicredit il 2,5%, UbiBanca meno 2%, Monte dei Paschi meno 1,40%, Mediolanum meno 1%. Come Intesa San Paolo, lo 0,70 lo perde anche Mediobanca. I bancari tutti in altalena e comunque oggi in Piazza Affari non recupera nemmeno in parte, diciamo, il calo di ieri. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, le altre notizie in breve. Come sempre dall'estero, sono uscite in quest'ultima ora e mezza varie agenzie dal Fondo Monetario Internazionale. Allora, devo dire nulla di eclatante se non per la componente che riguarda i crediti delle banche dell'area euro che si sono deteriorati, che vuol dire che saranno difficilmente esigibili, ripagabili. Il Fondo Monetario, dopo aver detto che la stabilità finanziaria migliora ma è troppo presto per cantare vittorie, qui siamo sull'ovvio, restano le sfide, bisogna fare forti azioni per lasciarsi la crisi alle spalle, e qui siamo sempre sulla, a mio avviso, alla fiera delle banalità. Aggiunge invece, sulle banche dell'area euro ci sono crediti deteriorati per 800 miliardi di euro, è il doppio rispetto al 2009. Questo limita la redditività delle banche e anche gli impieghi delle banche, cioè la possibilità che le banche possano prestare soldi. Le condizioni di credito restano difficili nell'economia dell'area euro sotto stress, e anche questo, diciamo, non abbiamo aspettato il Fondo Monetario per scoprirlo. Le politiche, dice il Fondo Monetario, nonostante le politiche attuate a livello nazionale ed europeo sostengano la transizione verso una più robusta integrazione, restano importanti sfide. Più interessante, a mio avviso, il fatto che il Fondo Monetario Internazionale stimi in circa in media il 10% il totale degli asset che le banche italiane e le banche spagnole hanno investite in titoli di Stato dei rispettivi governi. Cioè, in media una banca in Italia ha il 10% dei propri investimenti in titoli di Stato italiani, e la stessa cosa vale per una banca spagnola con i titoli spagnoli. Continua anche il dibattito, per ora a mio avviso molto accademico, sull'ipotesi che la Banca Centrale Europea possa adottare politiche di quantitative easing, ossia di iniezione di liquidità attraverso l'acquisto di titoli di Stato o altri titoli. Il governatore della Banca Centrale Greca, esponente della Banca Centrale Europea, Georg Provopoulos, ha detto: stiamo riflettendo sul progetto di un programma di allentamento monetario nell'area euro. Nel frattempo la Grecia potrebbe già tornare domani sui mercati per la prima volta da quando è stata salvata. Atene dovrebbe mettere un'obbligazione da 2 miliardi di euro con una durata 5 anni, un BTP da 2 miliardi con scadenza 5 anni. La cosa interessante è che a curare l'operazione dovrebbero essere JP Morgan da un lato e la Deutsche Bank dall'altro. Venerdì, tra l'altro, ad Atene è atteso l'arrivo di Angela Merkel. In Germania invece frena l'export, a febbraio si è registrato un calo dell'1,3%, dovuto soprattutto alle turbulenze e al rallentamento nelle economie emergenti. Le importazioni sono cresciute dello 0,4%, un dato anche questo superiore alle attese, che si somma al più 4% nelle importazioni tedesche a gennaio e confermerebbe la fase di rafforzamento della domanda interna. Tradotto vuol dire che i tedeschi stanno consumando un po' di più e quindi aumentano le importazioni. L'Unione Europea sul nostro documento economico-finanziario ha accolto con favore l'accelerazione delle riforme in Italia e l'intenzione di procedere spediti con privatizzazioni, razionalizzazione della spesa pubblica ed efficienza della pubblica amministrazione. Così il portavoce del commissario europeo Olli Rehn. Ancora bene le misure, ma occorre il pareggio per di bilancio per ridurre il debito. Bruxelles accoglie con favore anche l'impegno a finanziare la riduzione delle tasse per i lavoratori con salario basso e finanziarla interamente con i tagli alla spesa. Vedo un ascoltatore che dice: guardi che il dibattito non è accademico. No, ho detto solo che in questo momento, da quello che abbiamo spiegato, abbiamo soprattutto capito in questi giorni, l'idea che la Banca Centrale Europea possa stampare moneta, o meglio immettere liquidità attraverso l'acquisto di titoli di Stato o titoli di soggetti privati, è ancora del tutto teorica. Mario Draghi non ha fatto mistero che la considera, diciamo, un'estrema razio, una misura estrema nel caso si andasse verso una deflazione vera e propria ancora più accentuata. Allora, nel frattempo veniamo all'Italia. Gli analisti finanziari stanno calcolando l'impatto dell'annunciato aumento dal 12 al 26% dell'imposta a carico delle banche sulla rivalutazione della propria quota in Banca d'Italia. Devo dire che io non mi scandalizzo, le banche hanno un grosso vantaggio in questa rivalutazione, perché vuol dire, è come se tu improvvisamente scoprissi che una cosa di cui hai una partecipazione vale 10, 20, 30 volte di più, e la rivalutazione per esempio costerà a Intesa San Paolo un'extra tassazione di 294 milioni, a UniCredit un'extra tassazione di 196 milioni. L'importante è che poi le banche non scarichino, lo dico con massimo rispetto, questa extra tassazione su varie pratiche di aumento dei conti correnti o di altre operazioni finanziarie alla clientela o per la clientela. E sul DEF, botta e risposta oggi tra l'ex ministro, vice ministro dell'economia Stefano Fassina e il premier Matteo Renzi. Perché lo dico? Perché questa mattina Stefano Fassina, ospite di Giovanni Minoli a Mix24, aveva criticato duramente il DEF di ieri, e quindi il documento programmatico di economia e finanza varato ieri dal Consiglio dei Ministri, dicendo che va nella direzione sbagliata e in linea con le manovre precedenti del governo Berlusconi. Quindi lei dice la direzione di Renzi è una direzione sbagliata, per capirci bene. Ci sono alcune cose buone, ma nell'insieme, nel complesso, bisogna andare da un'altra parte. È la direzione in continuità con le manovre di Berlusconi dell'estate del 2011 dopo la lettera della BCE, con le manovre di Monti, in parte con le manovre di Letta, e avrà gli stessi risultati che abbiamo raggiunto in questi anni, e cioè meno PIL, meno occupati, più debito pubblico. Immediata la replica di Matteo Renzi del Premier oggi in conferenza stampa al Vinitaly, la prima volta che un Presidente del Consiglio visita il Vinitaly da 26 anni a questa parte. Immediata, dicevo, la replica, gli è stato chiesto che cosa pensasse delle parole pronunciate appunto questa mattina da Minoli, da Stefano Fassina, la replica. Fassina dice che ci vorrà una manovra correttiva, io la escludo nel modo più categorico, anche perché una delle caratteristiche di questo DEF, e mi fa piacere che sia stato sottolineato, vorrei ringraziare la stampa che lo ha sottolineato, una delle caratteristiche di questo DEF è che siamo stati molto rigorosi nelle previsioni. Io ho detto, scherzando con Padoan in Consiglio dei Ministri, anche troppo, perché le previsioni che il governo precedente dava all'1,1% sono state ridotte allo 0,8. 0,3 del PIL sono 5 miliardi, solo noccioline. Adesso un'ultima notizia, che è una buona notizia, perché mentre oggi si chiude il Vinitaly, ieri si è aperta la 53esima edizione del Salone del Mobile a Milano, che durerà fino a domenica. È la rassegna più importante del mobilio arredo al mondo e si attendono almeno 300.000 visitatori, con oltre 700 appuntamenti a Milano. Le prime stime danno alberghi con posti esauriti e anche il boom, che è interessante, della formula di affitti brevi di appartamenti in città. Fatturato extra per la città di Milano di 18 milioni di euro solo per la parte che riguarda la ristorazione. Sono 1.400 gli espositori distribuiti su 152.000 metri quadri. La situazione del settore, ma anche le attese, un primo andamento di questo Salone del Mobile, le ha illustrate Roberto Snyder, che è il presidente di Federlegno Arredo, al nostro Stefano Totolo. 2014, dalle ultime impressioni, dati che ho io, è iniziato bene, se voglio, perché il bonus mobile ci ha portato, mi dicevano, i primi due mesi di quest'anno il 4,9% in più di crescita di fatturato. Oggi siamo qui in apertura del Salone del Mobile, è un evento unico al mondo, penso che sarà un anno di soddisfazione. Sull'estero senz'altro, sull'Italia tenteremo di fare tutti i mezzi che abbiamo a disposizione, lo dicevo prima, invitare il governo a darci soddisfazione per quanto chiediamo per il nostro settore. Tenga conto che noi abbiamo un bilancio dei pagamenti di 8 miliardi surplus, quindi dobbiamo essere considerati per quello che valiamo. Il Salone del Mobile è una dimostrazione degli investimenti che stanno facendo le industrie del settore, sia a livello esterno ma particolarmente a livello di prodotto, quindi mi auguro che sia positivo. Non abbiamo chiaramente il 4% di crescita sul mercato interno, è un dato positivo sì, ma non sono dei grandi, purtroppo non sono dei grandi numeri, mentre sull'estero siamo comunque in crescita. L'euro forte quanto conta? Purtroppo nel mercato degli Stati Uniti conta molto, il dollaro a 1,38 è pesante, ci riduce i margini, se fosse il dollaro un po' più basso rispetto, l'euro più basso rispetto al dollaro, chiaramente avremo molte più possibilità. Comunque ci lavoriamo e vendiamo, perché gli Stati Uniti è uno dei paesi dove il flusso delle esportazioni è tra i più alti. Lo dico a chi sta scrivendo al 349-238-6666 sui temi del DEF. Io non ho detto che Fassina sbagli, questo lo pensa qualcuno. Ho detto che c'è una critica molto dura di Fassina al DEF di Renzi. La mia opinione non conta nulla, non vedo tutta questa similitudine nella manovra con le manovre precedenti. Poi quello che deve fare Fassina nella sua vita, come chiedono altri ascoltatori, se restare nel PD o no, sono fatti suoi, non mi interesso delle tematiche interne al PD. Poi ogni partito fa i suoi calcoli, farà le sue riflessioni e se ha altre misure da proporre. Io tutte queste misure, però fatemelo dire, dal governo Letta tutte queste iniziative non le ho viste, soprattutto negli ultimi mesi, questo di carattere economico, Detto ciò, visto che parlavamo del Salone del Mobile, chiudiamo con il Vinitaly, oltre 155.000 presenze in 4 giorni, record quindi assoluto, più 6% sul 2013. Vorrei farvi ascoltare in rapida sequenza alcune dei commenti che abbiamo raccolto, ma soprattutto li abbiamo raccolti oggi tra chi arriva al mondo del vino da altri mondi. È il caso per esempio della famiglia Ferragamo, che ha investito in Castiglione del Bosco, viene dal mondo della moda. Abbiamo chiesto appunto a Massimo Ferragamo come mai dalla moda ci si sposti in un settore che obiettivamente, pur con qualche affinità, nulla c'entra sia coi tempi che con gli investimenti, col settore della moda. Per me è stato sicuramente il fatto di essere molto affezionata alla Toscana, di vivere da 30 anni all'estero, di aver avuto questo desiderio di coinvolgermi in un'attività vinicola. Arrivando al territorio di Montalcino, per caso ho scoperto questa azienda che risale al 1100 e che è stata tra le sette fondatrici, sette case vinicole fondatrici del Brunello di Montalcino nel 63. Quindi una grande storia, un grande potenziale, però ridotta, diciamo, ai minimi termini. Quindi è proprio una passione che mi ha dettato il fatto di coinvolgermi, di rimetterla a posto, perché il potenziale c'era, è un'azienda bellissima con dei vigneti particolarissimi. Quindi direi prima di tutto la passione. E poi il vino è una cosa molto particolare, quando ti ci addentri e inizi a capire le varie dinamiche, ti cattura. Ecco, infatti su questo la mia curiosità è capire, è più difficile il mondo del vino o quello della moda? Perché sono due mercati molto difficili, entrambi molto vocati all'estero. Sì, è vero, ma ci sono delle similitudini sempre nei business, specialmente nei business di alto livello. Si cerca sempre di dare il meglio, si cerca sempre di fare attività che aggiungano valore, quindi ci sono delle similitudini sicuramente in tutte e due le cose. Ovviamente c'è delle grosse differenze, prima di tutto i tempi, quando si fa vino, specialmente il Brunello Montalcino, dove per 5 anni devi tenerlo in cantina prima di poterlo commercializzare, è totalmente diverso. Mentre nella moda, ovviamente con i cambi che ci sono ogni 6 mesi, riesci a tarare molto più velocemente, invece se hai fatto un errore lo scopri un po' più tardi nel vino. Il vostro investimento è, diciamo, in questo momento un investimento che si fermerà qui, oppure avete intenzione di espandere, visto che lei ricordava quali sono anche i tempi della produzione vitivinicola? Certo, questo è il mio investimento personale, però se uno viene da un mondo imprenditoriale è difficile vedere le cose statiche, quindi sempre di vederle in espansione. Anche noi abbiamo tanto da fare ancora a Castiglione del Bosco per aumentare quello che fa, ma in futuro mi piacerebbe guardare un essere coinvolto in un business che ha anche una dimensione un po' più grande, quindi potenzialmente accrescerlo anche con qualche altra acquisizione. Restiamo in tema di chi fa investimenti nel mondo del vino provenendo da altri settori. È il caso, per esempio, del gruppo farmaceutico Angelini, che ha comprato 500 ettari di terreni, di cui 350 già vitati tra il Nobile di Montepulciano, Montalcino e l'Amarone, e anche 1000 ettari di terreni agricoli nelle Marche. 3 milioni di bottiglie prodotte, 20 milioni di fatturato, con un 60% di export. In collegamento con noi l'amministratore delegato di questo, che si chiama Bertani Domaine, alla francese, Emilio Pedron. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Che cosa porta chi, visto che lei poi fa in realtà del tecnico che gestisce poi l'investimento, mi faccio dire così, ma che cosa porta un gruppo come Angelini a investire ancora nel vino? Non è che le quotazioni dell'ettaro e i prezzi comunque siano già molto alti? No, noi siamo convinti che l'investimento nella terra e nel vino di qualità sia un investimento che può ancora crescere, che può ancora portare anzitutto sicurezza dell'investimento, ma anche una certa giusta redditività, non redditività di tipo finanziario, ma giusta per chi si accontenta con investimenti di tipo moderato. Ecco, per cui l'idea che ci sia un settore in bolla, diciamo, sui prezzi è un'idea che voi non condividete. La difficoltà più grossa che avete in questo momento è sul fronte del consumo interno, perché comunque voi tra Amarone, Montalcino e Nobile di Montepulciano siete su una fascia alta nella produzione, e ho visto che il 60% va all'estero. Sì, volevo un attimo sul discorso di prima. L'investimento in vigneti va bene, sicuro e tranquillo, purché dietro ci sia anche un progetto di marca che sostiene le produzioni e che sostiene la diffusione commerciale. Abbiamo appena finito il Vinitaly e io sono convinto che è ora di ripensare al mercato in Italia. Non è più vero che i consumi sono continuamente in calo, ma per chi sa avere i prodotti giusti, gli uomini giusti e soprattutto il modo giusto di portare il vino, si può vedere una certa ripresa. Io ho lanciato l'idea che dobbiamo pensare non solo ai mercati esteri, ma anche all'Italia. L'Italia è un paese è il primo consumatore di vino nel mondo, e poi tutti i nostri, il flusso turistico viene in Italia, deve trovare i nostri vini per poi poterli bere all'estero. È abbastanza effimero pensare al successo all'estero senza avere anche una buona reputazione e buon successo in Italia. Ecco, anche lei condivide l'entusiasmo su questo Vinitaly, al di là della visita del Premier Renzi? Sì. Lei ne ha fatti a decine di Vinitaly, Pedron, perché prima era il numero uno del gruppo italiano vini. Io ne ho fatti 35 ormai, per cui ormai li ho visti tutti, e direi che sono sempre migliori come manifestazione, come successo di manifestazione. Naturalmente è una grande festa del vino italiano, e nella festa tutti ci montiamo un po' la testa, no? Poi alla fine le cose vengono, si devono anche poi consolidare praticamente, però di fatto è una manifestazione stupenda. Together. Thank you. 17:39 minuti, concludiamo quest'ultimo approfondimento sull'ultima giornata del Vinitaly. Perché lo dico? Perché mentre appunto saluto e ringrazio Giovanni Busi, presidente del consorzio Chianti. Buonasera Busi. Buonasera, buonasera a tutti. Ascoltiamo anche una rapida sequenza di alcune alcuni commenti, alcune valutazioni sul settore export ma anche mercato interno che ha raccolto in questi giorni tra i padiglioni il nostro Stefano Totaro. Inizia José Rallo di Donna Fugata. Abbiamo vissuto un po' tutti questo dramma della contrazione dei consumi interni, che comunque viene da lontano. Siamo diminuiti da 80 a 40 litri pro capite nell'arco di 25 anni, quindi insomma è stato un processo lungo di cambiamento di stile di vita. Il vino è diventato un prodotto di qualità, si vuole bere poco, magari spendendo anche qualcosa in più, avere un'emozione, qualcosa da non dimenticare. 50% della produzione nazionale viene esportata, anche per Donna Fugata l'export è fondamentale. Noi siamo ancora un 30% perché veniamo dal sud, siamo un po' lontani dai mercati, però ce la mettiamo tutta. Siamo presenti in 60 mercati e l'export va molto bene. No? E poi da fronte opposto in Veneto, Sandro Boscaini, numero uno dell'azienda vitivinicola Masi e Sergio Alighieri. Non c'è dubbio che in questo momento stiamo soffrendo un po' la pesantezza dell'euro, che si traduce poi in prezzi molto meno competitivi in parecchi mercati e in una competizione un po' sfalsata rispetto a altri paesi, specialmente del Nuovo Mondo, perché le loro monete sono ancora più basse rispetto al dollaro degli Stati Uniti e pertanto riescono ad avere dei prezzi più competitivi. Allora la combinazione di queste due, non c'è dubbio, non mette in affanno, per carità, ma è un piccolo ostacolo a una crescita che continua comunque ad esserci. Come fare secondo lei per evitare, per superare questi ostacoli, ovvero per far ripartire un pochino la domanda interna e per avere diciamo delle agevolazioni anche all'estero, visto che l'euro è così forte? Io credo che per la domanda interna il problema non è tanto del settore del vino, ma è un problema generale di economia italiana, di propensione al consumo, che deve pur cominciare ad essere presente. Per l'estero ci auguriamo che questa situazione di squilibrio, che non ha francamente una ragione vera, per cui l'euro è esageratamente alto rispetto a altre monete, si debba riequilibrare e allora a quel punto noi possiamo giocare veramente ad armi pari. Allora, mi sembra che, visto che è da tre giorni che ce ne occupiamo, dottor Busi, presidente Busi, lei rappresenta il consorzio di Vino Chianti, sono 16.000 ettari, 3.600 esatto. Soci, 105 esatto. Milioni di bottiglie per un totale di 350 milioni di euro di giro d'affari, il 70% va all'estero. Mi sembra che i temi siano un po' questi, cioè per quanto voi siate più di altri settori spostati sull'estero, dovete in qualche modo far ripartire i consumi interni, ma sull'estero il tema grosso riguarda l'euro. Mi dia però anche un commento su questa edizione del Vinitaly, sull'interesse che ha notato o il disinteresse eventualmente. Certo, interesse c'è stato quest'anno, direi che per quanto riguarda i Chianti c'è stato un bel interesse, è andato sotto i riflettori del mercato, abbiamo avuto un'ottima presenza di paesi esteri, sentivo una trasmissione, parlavano di euro, indubbiamente questo euro forte non ci facilita diciamo così, uno sviluppo che ci potrebbe essere nel Chianti. L'euro forte ci blocca un po' soprattutto sui prezzi, perché non è soltanto un problema del dollaro ma anche dello yen. Per noi, per il Chianti, anche il mercato giapponese è un altro mercato molto molto importante, che potrebbe avere veramente dei grossi sviluppi, come potrebbe avere dei grossi sviluppi ancora l'America, che per sempre è stato uno dei nostri paesi di riferimento. Però vediamo che ci possono essere delle grosse opportunità ancora in sviluppo del nostro mercato. Questo euro forte indubbiamente ci frena, ecco, in qualche modo rallenta quello sì, che frena voi e anche i francesi, diciamo, avvantaggia chi è fuori dall'euro, e penso agli australiani, ai cileni, agli argentini, ai sudafricani. Non c'è dubbio, anche perché poi stiamo parlando, lei ha parlato di Australia, Australia ha anche delle dimensioni tali che riescano ad avere delle, diciamo così, delle economie di scala che sono nettamente superiori alle nostre, e quindi riescono ad arrivare sui mercati con dei prezzi molto più concorrenziali. Con 3.600 aziende noi abbiamo aziende che hanno sì qualche centinaio di ettari, ma abbiamo anche aziende che hanno anche mezzo ettaro, di conseguenza dobbiamo in qualche modo riuscire a trovare un equilibrio nella economicità, nello sviluppo delle proprie aziende per tutti. Ecco, mi dica un'ultima cosa. Prima Pedron diceva non bisogna però abbandonare, arrendersi al fatto che i consumi interni non ci siano. Si può anche fare qualcosa in attesa che ripartano i consumi. Qualcosa lo possono fare anche i produttori. Lei è d'accordo? Niente, d'accordo con quello che ha detto. Perché lei l'ha detto all'inizio, il 30% viene venduto in Italia per quanto riguarda il Chianti, quindi possiamo dire che il primo nostro cliente è l'Italia. Di conseguenza non dobbiamo abbandonare l'Italia. Noi ci auguriamo che anche nel prossimo OCM, ad esempio, che verrà adesso, dovrà uscire adesso e quindi presentare le domande entro maggio, siano compresi anche i paesi europei e di conseguenza anche l'Italia, dove dobbiamo ritornare ad investire, a promuovere in un paese, ripeto, per noi molto importante, perché è sicuramente il nostro primo cliente. In questi anni l'abbiamo un po' abbandonato per vari motivi, soprattutto per motivi anche di crisi economica globale che non è riferita al vino, però poi il vino è quello che sicuramente è uno dei primi settori che ne va a subire, perché quando uno deve andare a fare la spesa, prima magari compra la pasta, compra il pane, poi se ci rientra compra anche, certo, la bottiglia. Ci mancherebbe che facesse il contrario adesso. Assolutamente, no, ma lo capisco perfettamente, però indubbiamente noi andiamo a risentire di questo, ecco. Allora, in bocca al lupo a tutti voi. C'è chi dice, ma insomma, parlate di vino, sì, una volta all'anno, non è lecito insanire, ma è lecito parlare di vino, cioè il Vinitaly, e parleremo nei prossimi giorni anche del Salone del Mobile. L'economia produttiva e reale di questo paese la si fotografa anche con le grandi manifestazioni, in alcune di queste l'Italia è leader, penso al Vinitaly, penso anche al Salone del Mobile. Grazie, in bocca al lupo anche al presidente del Consorzio Vino Chianti. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Chi dice capisce che abbiamo una moneta troppo forte, lo diciamo da anni che l'euro a quota 1,38, 1,39, 1,40 non ha senso, ma non è che uscendo dall'euro risolvi il problema, perché te ne porti in casa problemi molto peggiori, e soprattutto non oso pensare a cosa capiterebbe al potere d'acquisto degli italiani. Il problema è che l'euro è troppo forte, non per volontà degli europei, in questo caso non c'entriamo, ma perché l'America sta attuando una politica di dollaro debole da quando è scoppiata la crisi, a cui noi rispondiamo con rigore dei conti pubblici, senza mai anche noi metterci a indebolire tra virgolette l'euro. Però non posso toccare adesso questo tema, perché vorrei salutare Livia Zancaner di Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera Livia. Parlare con Fabio Pavesi prima di tutto di una vicenda che riguarda Banca Marche, e poi arrivare alla borsa, che comunque ha chiuso con un più 0,23%. Allora, di Banca Marche noi abbiamo già raccontato la gestione, diciamo così, allegra del direttore Massimo Bianconi, durata fino al primo semestre 2012. La banca ha perso nella semestrale 2013 233 milioni, ha crediti deteriorati, cioè crediti che non riesce più a recuperare, per 3,4 miliardi, il 20% di tutti i prestiti, tre volte il capitale della banca. Commissariata a fine 2013, oggi le novità. Fabio. Ma c'è un'inchiesta della Guardia di Finanza, ci sono 27 indagati, ovviamente questa è la coda giudiziaria di una vicenda che nasce da molto lontano. Già due consiglieri indipendenti, dobbiamo fare i nomi perché furono grazie anche grazie a loro che si sollevò il coperchio, tale Giuseppe Grassano e Francesco Cesarini, consiglieri indipendenti mandati dalla Banca d'Italia, segnalavano già nel 2011 che di fatto la banca non svalutava correttamente i crediti malati. Cioè continuava a dire che doveva riavere dei soldi che non avrebbe mai avuto. In realtà non avrebbe mai avuto. E da gennaio 2012 Banca d'Italia lanciò un monito pesantissimo sul cambio di management. Cioè l'operato di Bianconi, che dal 2004 sfornava utili di 100 milioni l'anno, così dichiarava lui e così faceva, in realtà si è rivelato quantomeno ingannevole, perché quegli utili erano fatti non svalutando crediti malati, tra l'altro crediti che non andavano sul territorio, perché Banca Marche è una banca del territorio, raccoglie in quella zona, ma si è visto che Bianconi e chi con lui, come dire, dirigeva la banca, finanziava, come dire, progetti immobiliari a Roma, a finanziare un imprenditore pugliese tale Ciccolella, cioè tutte realtà poi andate fallite. Quindi Bianconi aveva una logica discrezionale di erogazione dei crediti, ce l'abbiamo visto in molte situazioni, cioè prestiti facili, come dire, ad amici o a gente che non meritava credito. Questa cosa è stata occultata nei bilanci e poi è arrivato un buco da 500 milioni nel 2012, un altro buco da 250 nel primo semestre 2013, banca commissariata, e si è scoperto che quando Bianconi finalmente ha lasciato, dopo mesi e mesi, ha lasciato 2 miliardi in più di crediti deteriorati nel conto economico della banca. Complimenti. Ecco, perché però le perquisizioni di oggi nei confronti di 27 indagati tra ex dirigenti e amministratori del gruppo? Perché probabilmente dice sia falso in bilancio, falso in prospetto, esatto, ostacolo alla vigilanza, ma anche più di natura patrimoniale le appropriazioni indebite. Sì, perché poi i due commissari straordinari insediati da Banca d'Italia hanno fatto una ricognizione e temono che la gestione della banca è stata una gestione dove qualcuno se ne è approfittato. Ovviamente sotto tiro non solo Bianconi, ma i vecchi CDA e anche il collegio sindacale, che ovviamente, come dire, era lì ma non vedeva. Come spesso accade in queste storie di mala finanza, due organi di controllo che fino all'ultimo minuto dicono va tutto bene e poi in realtà non è così. Ripeto, la cosa scandalosa è che questi due consiglieri indipendenti invitati da Banca d'Italia a sedere già nel 2011 segnalavano politiche contabili quantomeno bizzarre. C'è voluto un anno e mezzo per defenestrare Bianconi, che tanto è uscito con una liquidazione, tra liquidazione e premio, insomma, con circa 7 milioni complessivi. Allora voglio dire, anche lì il CDA per anni ha sorretto Bianconi, con unica eccezione la fondazione della Cassa di Spagna in Macerata aveva provato a dire ma qui occorre fare un cambio di governance, gli altri soci evidentemente non la pensavano allo stesso modo, erano altre due fondazioni bancarie. Sì, il problema, adesso lo dico con massimo rispetto, è che nel privato ognuno può dare le remunerazioni che vuole, poi insomma non è il tema di questi giorni sul pubblico, sulle partecipate. Il problema è però che la governance sia fatta in maniera corretta, perché se poi il CDA si aumenta i gettoni di presenza per votare l'aumento del bonus all'amministratore delegato, il giochetto è troppo facile e purtroppo già visto altre volte, ed è questo uno dei casi, perché distruggi una banca, lo dico con Massimo Micuarelli e anche Bianconi, così e continuo. Bah, con, però dico, ho scritto anch'io di Bianconi, non è mai arrivato nessuna querela. Distruggi una banca e ti becchi 7 milioni di euro in un periodo in cui stiamo molto discutendo gli stipendi dei manager, beh, forse una bella azione di responsabilità ci vorrebbe, e anche di quelle pesanti. Devo veramente chiudere, grazie a Fabio Pavesi, torneremo su Banca Marche ogni volta che avremo, come in altri casi, notizie. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Andiamo adesso alla borsa e poi al commento sul documento presentato ieri, documento programmatico di economia e finanza presentato ieri dal Premier Matteo Renzi. Più 0,23% Milano oggi, come Francoforte più 0,16%, anche Parigi più 0,40%, Londra più 0,70%, l'America più 0,34%, poco mosse quindi oggi le borse, senza nessuna possibilità di recuperare il calo di ieri da parte di Milano, ma con più di uno spunto, UX più 6,35%, mentre sul fronte opposto E devo dire anche Prismian, più 3,14%, Buzzi Unicem più 2,30%, Atlantia più 2% come Pirelli e Autogrill, ma anche Fiat. Dicevo, mentre sul fronte opposto sono deboli tutte le banche, la Pop Milano perde il 3,5%, Unicredit il 2,40%, Ubibank l'1,90%, Monte dei Paschi l'1,80%, Mediolanum l'1,20%, Mediobanca l'1%, Intesa meno 0,50%. Livia Zancaner, Radio Colli sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Prima domanda, che visto anche il prossimo tema, le banche perdono per l'aumento della pressione fiscale sulla rivalutazione delle quote in Banca Italia? Allora, in realtà gli operatori dicono solo in parte, quelle che ne risentono di più sono Intesa San Paolo ed Unicredit. Bisogna considerare oggi che il comparto bancario è stato debole in tutta Europa, infatti ha chiuso poco sopra la parità. Mm-hmm. Quindi i dati che ci troviamo all'inizio del programma su quello che è stato fatto, il calcolo fatto per quanto costerà alle banche italiane, e si riferiva appunto a Unicredit 196 milioni e Intesa San Paolo 294 milioni di tassazione in più, portando l'aliquota dal 12 al 26%, l'imposta, scusatemi, dal 12 al 26% sulla rivalutazione delle banche nella loro quota in Banca d'Italia. Iux. Sì, allora Iux ha registrato la migliore performance sul paniere principale, ha guadagnato oltre il 6%, secondo gli esperti consigliano ora di acquistare le azioni Iux dopo i cali che hanno registrato nelle scorse settimane. Ricordiamo infatti che il titolo ha perso oltre il 30% dal picco registrato a gennaio, il 27% circa nell'ultimo mese, e appunto gli esperti consigliano l'acquisto delle azioni alzando, considerando anche un prezzo obiettivo del titolo a 38,5 euro, oggi ha chiuso a 24,97. Ancora tra i titoli segnalo, oltre alle banche di cui abbiamo già parlato, che si muove bene appunto Prismian, ma anche Fiat più 1,90% da un lato, Exor più 1,35%, oggi Exor ha diffuso i conti dividendo a 33 centesimi e mezzo per azione, l'utile della finanziaria della famiglia Agnelli che controlla il gruppo Fiat balza 2 miliardi di euro grazie alla plusvalenza per la vendita di SGS. Livia. Sì, allora bisogna ricordare che oggi il comparto auto è andato bene in tutta Europa, ha guadagnato oltre l'1,5%, ma è andata bene, come dicevi tu, soprattutto la Galassia Agnelli che ha guadagnato terreno ma piazza affari. Exor ha quindi mostrato un netto rialzo dell'utile e il NAV, cioè l'insieme del valore delle partecipate, è cresciuto del 16% nell'intero 2013, ma nei primi mesi del 2014 sarebbe cresciuto già del 12%, quindi riallineando in sostanza il valore della holding, che è azionista di riferimento di Fiat e di CNH Industrial, proprio con i risultati in crescita che hanno mostrato le due società separate negli anni passati, quindi probabilmente il certo mercato premia le azioni acquistando il titolo. Dicevamo della Pop Milano che perde nettamente più dell'intero settore bancario, il 3,47%. Sì, allora la Popolare di Milano, ricordiamo che sabato ci sarà l'assemblea che dovrà decidere anche sulla governance, al momento vi è ancora incertezza, ma sul titolo influisce anche il consiglio di alcuni esperti di alcune banche d'affari che, dopo il forte rally registrato dalle banche e dal titolo nelle scorse settimane, ora prevedono un periodo di tranquillità e quindi non consigliano più di acquistare titoli come la Popolare di Milano e Unicredit, mentre consigliano ancora di comprare titoli Intesa San Paolo. Azimut, quindi risparmio gestito, e Mediolanum meno 1,26%, Mediolanum meno 2,40%, Azimut, quelli risentono dell'aumento della tassazione sulle rente finanziarie? Sì, secondo gli operatori ne risentono, vediamo che Azimut sono comunque 2-3 giorni che scende nonostante i risultati record in termini di raccolta mostrati nel primo trimestre dell'anno. La società ha infatti mostrato solo nei primi tre mesi dell'anno una raccolta sopra 1,5 miliardi di euro, che è ben il doppio rispetto al primo trimestre 2013 ed è uguale al risultato realizzato nell'intero anno 2012. Allora, tra chi si è mosso bene invece vorrei citare anche Buzzi Unicem più 2,20, Atlantia più 2% come Pirelli, ma Autogrill più 2, Snam più 1,70 come A2A, Moncler più 1,60 e Steam Electronics più 1,5 come Enel. L'1,30 lo guadagna Exor ma anche Terna. L'1,1 Toz e Ferragamo ma anche Luxottica. Fuori dal listino principale, vabbè, Telecom, ho visto una bella altalena anche oggi, chiude con un più 0,70%, ma c'è l'assemblea il prossimo 16 aprile. E invece fuori dal listino principale Mondo TV e Mondo TV France. Allora, Mondo TV France più 19,70, Mondo TV più 13,50%, e fronte opposto invece per Banca Carige meno 5,70%. Sì, allora Mondo TV ha beneficiato di questo accordo comunicato oggi di licenza per lo sfruttamento dei diritti televisivi in Indonesia e Sri Lanka per una durata di 5 anni. Ricordiamo che la società è attiva nel settore della produzione e commercializzazione di serie televisive animate, in sostanza di cartoni animati destinati al mercato televisivo e cinematografico. Sul fronte opposto, come dicevi tu, Banca Carige ha perso terreno, Moody's ha tagliato il rating dell'istituto a causa delle perdite registrate nel quarto trimestre dalla banca, ma anche per il timore che sia a rischio il superamento dell'asset quality review da parte della Banca Centrale Europea, cioè quella revisione, ma appunto della qualità in vista degli stress test che verranno poi realizzati nel secondo semestre di quest'anno. Bene anche oggi il Sole 24 Ore, più 9,40% a 1,34 euro, è ancora distante del livello della quotazione. Se volete sapere se ci sono notizie, no, non le abbiamo, il flottante è basso, ci vuole poco a muovere certi titoli. E ancora Seat pagine gialle invece sul fronte opposto meno 5,56%. Grazie a Livia Zancanere. Adesso l'ultimo tema del programma è l'analisi del documento programmatico di economia e finanza presentato ieri dal Presidente del Consiglio e avallato chiaramente dal Consiglio dei Ministri. Dice la direzione di Renzi è una direzione sbagliata, per capirci bene. Ci sono ci sono alcune cose buone, ma nell'insieme, nel complesso, bisogna andare da un'altra parte. È la direzione in continuità con le manovre di Berlusconi dell'estate del 2011 dopo la lettera della BCE, con le manovre di Monti, in parte con le manovre di Letta, e avrà gli stessi risultati che abbiamo raggiunto in questi anni, e cioè meno PIL, meno occupati, più debito pubblico. Fassina dice che ci vorrà una manovra correttiva, io la escludo nel modo più categorico, anche perché una delle caratteristiche di questo DEF, e mi fa piacere che sia stato sottolineato, vorrei ringraziare la stampa che lo ha sottolineato, una delle caratteristiche di questo DEF è che siamo stati molto rigorosi nelle previsioni. Io ho detto, scherzando con Padoan in Consiglio dei Ministri, anche troppo, perché le previsioni che il governo precedente dava all'1,1% sono state ridotte allo 0,8. 0,3 del PIL sono 5 miliardi, sono noccioline. Noi stiamo facendo un lavoro sulle riforme molto serio e penso che i cittadini se ne siano accorti, perché dopo che per 30 anni hanno solo discusso e hanno solo parlato, noi oggi stiamo realizzando quelle riforme. Il 25 maggio non si vota per le province. La riforma del Senato, del titolo quinto, l'abolizione del CNEL, io non so come farete a vivere senza il CNEL. Vi vedo perplessi, vi vedo preoccupati, ma l'abolizione di un ente costituzionale quale il CNEL, insieme a tante altre cose che noi dobbiamo fare, è un segno di cui si parlava da una vita e che adesso è disegno di legge costituzionale, oggi è incardinato presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato presieduta da Anna Finocchiaro. La riorganizzazione della macchina che noi vogliamo è che non è accettabile che i cosiddetti mandarini che restano lì per una vita diventino intoccabili, e soprattutto è inaccettabile che mentre le famiglie non hanno visto crescere il proprio stipendio, in questi 10 anni ci sia stato un aumento delle retribuzioni, specie legate alla parte variabile, inaccettabile. Così appunto Matteo Renzi oggi in visita al Vinitaly, ha anche aggiunto se i manager della pubblica amministrazione andranno nel privato ce ne faremo una ragione, è appunto inaccettabile l'aumento degli stipendi, il tetto da 238 mila euro non è banale e inaccettabile che un dirigente possa lamentarsi. Allora Fabrizio Forché, tu scrivi oggi sul Sole 24 Ore, passo avanti da verificare, se ho ben capito ti convince il fatto che si sia entrati per la prima volta nel merito proprio sul taglio dei dirigenti pubblici, 500 milioni, interventi alla sanità e anche al funzionamento della politica. Sei però, correggimi se sbaglio, più dubbioso da un lato sulle coperture e dall'altro sul fatto di poter mantenere, mi riferisco al taglio dell'IRAP del 10% e gli 80 euro sull'IRPEF anche l'anno prossimo? No, in realtà con questo DEF fa un passo in avanti perché per la prima volta appunto entriamo nel merito di quali sono le coperture. Insomma, finora noi abbiamo incalzato molto Renzi perché i suoi annunci non trovavano riscontro poi in annunci in quello che erano i sacrifici, diciamo, per coprire le manovre espansive che lui annunciava. Con il DEF è dovuto entrare più nel merito e cominciamo a vedere le coperture, perché su 6,7 miliardi di taglio all'IRPEF lui ha identificato 4,5 miliardi di tagli di spesa e i capitoli sono stati individuati con chiarezza, anche molte delle cifre sono state individuate con chiarezza, e altri 2,2 miliardi dall'operazione sui pagamenti della PA e quindi sull'IVA che dovrà entrare dai pagamenti della PA e da questa tassazione aggiuntiva sulle banche. Quindi c'è un'indicazione più stringente di quali sono le coperture, va verificato perché comunque questo è un documento di programmazione, non è ancora il decreto che taglia il cuneo fiscale e solo tra 10 giorni noi avremo quel decreto e avremo anche il dettaglio finalmente davvero delle coperture. Allora questa verifica ancora va tenuta aperta, però siccome è un mese che noi teniamo, come dire, sotto giudizio Renzi per le cose che lui annuncia che vanno tutte verificate, è anche vero che, voglio dire, in queste settimane lui un percorso lo ha fatto e sta cominciando. Vabbè, io devo dire che questo è innegabile, poi la valutazione sul percorso ognuno può fare quella che vuole, appunto Fassina è molto critico, altri sono più a favore. Devo dire che è appena uscita una nota anche della Confindustria, il documento economico finanziario traccia una salutare accelerazione riformatrice per il paese a partire dal riassetto istituzionale coerente con gli indirizzi annunciati dal governo al momento del suo insediamento, e aggiunge Confindustria occorre però fare di più sul costo del lavoro e sugli investimenti e sulla riduzione dell'IRAP il passo appare troppo timido. Comunque le agenzie titolano salutare accelerazione riformatrice. Il fatto che Renzi e il governo nel documento di ieri abbiano ottenuto il deficit per il 2014 ancora al 2,6%, secondo te è un atto di prudenza? Mi spiego, noi possiamo arrivare fino al 3% se fossimo messi male, 1,04% del PIL non è poca cosa, sono quasi 8 miliardi di euro. Secondo te questo è un atto, diciamo, lungimirante e prudente per dire se poi le cose buttano male a quel punto arriveremo fino al 3%? Sì, secondo me questo è uno dei segnali positivi di questo DEF e ha ragione Renzi a dire che questo siamo stati rigorosi. Secondo me questo è il DEF di Renzi e di Padoan, non è solo il DEF di Renzi. Vero. E questa prudenza secondo me era necessaria proprio come segnale da dare non solo in Europa ma anche in Italia, guarda, di affidabilità di questo governo, perché tu non puoi portare non puoi utilizzare già ora tutti i margini che ti vengono concessi fino al 3% o impegnando quelle risorse, perché qualunque cosa succede nel corso dell'anno, noi sappiamo benissimo che nel corso dell'anno poi i piccoli aggiustamenti di bilancio si rendono sempre necessari, allora tu non puoi impegnare queste risorse da subito, per cui io credo che questo sia un atto di prudenza che indica, come dire, una responsabilità di governo che fino ad ora Renzi non aveva del tutto dimostrato, e questo è uno degli elementi secondo me più positivi, più rassicuranti, nel senso che, per dire alla milanese, non fa il ganassa, oppure, visto che era il suo soprannome da ragazzo, non fa il bomba, cioè non la spara tutta per tutta. Si è tenuto uno 0,4% di PIL, ripeto, sono 8 miliardi di euro calcolati male come margine. Da questo punto di vista devo dire, con massimo rispetto per Fassina, ex viceministro dell'economia, che il governo Letta, di cui era viceministro, prevedeva una crescita del PIL all'1,1%, che obiettivamente è irraggiungibile, siamo quasi a metà d'anno e tutte le stime ci danno lo 0,6, se andrà bene faremo lo 0,8, o 0,9, ma mettere l'1,1%... era quello sì un po' troppo Fassina, lo dico perché poi è facile criticare dopo. Un'ultima domanda rapidissima, perché tu fai vice direttore sulle 24 ore, ma è anche in mano a tutta la redazione romana, quindi l'elemento, diciamo, anche dove c'è la maggior parte del carico politico del quotidiano. Il nemico di Renzi più forte in questo momento resta la minoranza del PD, visto che è in corso un direttivo? Resta assolutamente all'interno del suo partito, dove per ragioni tattiche tutte più o meno si stanno riorientando su Renzi, ma io credo che aspettano soltanto il momento buono di debolezza di Renzi per poter ridiscutere gli equilibri all'interno del partito. In questo senso credo sia decisive le elezioni europee. Se Renzi va sopra il 30% ha in mano il partito e ha in mano gran parte del paese. Se sta sotto il 30 comincia un percorso complicato per lui. Ma non è una tendenza un po' suicida quella del PD, nel senso che, per carità, avessi un altro candidato, ben venga, io Massimo, non mi interessano i casi interni del PD, ma avere, diciamo, un premier che rischia di subire lo sgambetto più forte non dall'opposizione ma dal suo partito? Ma io credo assolutamente di sì, e ho sentito stamattina Fassina, sinceramente non ho capito, proprio non ho capito cosa diceva, mi sembra in preda a ragionamenti molto ideologici, ma insomma di concretezza ne vedevo poca. La verità è che Renzi è sempre stato vissuto come un corpo estraneo all'interno del suo partito e per ora continua ad essere. Ci vuole veramente una rivoluzione epocale all'interno di quel partito per poter accettare Renzi come il loro leader. Vabbè, immagino che molti ascoltatori ne sentite dire che Renzi è sempre stato vissuto come un corpo estraneo dal vecchio PD, daranno, diciamo, un plauso in più a Renzi, altri magari no, non ci interessa questo, dico semplicemente che impallinare un programma di governo da parte del partito di cui sei segretario sulla base, nemmeno io ho capito bene Fassina, perché non ricordo quale fosse lo strumento forte del governo Letta per far ripartire l'economia, ma la colpa è della mia memoria e dei miei neuroni. Grazie a Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore. Da Sebastiano Berisoni le auguro di una buona serata. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.